sappiamo che ci è stato trasmesso a noi, chissà attraverso quelle vie, Giorgio, un fatto che ci vuole speranto. L'esperanto, la lingua comune, essere parola, che diventi diritto e quindi per noi libertari obbligo. Translimen, www.translimen.it. Mancando 174 giorni, anzi 173, visto che è passata la mezzanotte, all'uscita dell'inglese dal novero delle lingue comunitarie, avevamo anticipato oggi alle 14.30 in Translimen 5 minuti la domanda a Paolo Morandotti di Italradio su quale potrebbe essere invece un ruolo della RAI a questo punto, a guida sovranista, che si riappropri e rilanci il ruolo di media di Stato nel riprendersi quella sovranità linguistica e culturale ceduta in questi ultimi 60 anni. Paolo Morandotti ci aveva risposto che in un quadro di internazionalizzazione della e nella lingua italiana il media più importante in assoluto diventa proprio la radio. E da qui infatti riparte l'intervista a Paolo Morandotti per poi a seguire, nell'ambito della collaborazione instaurata a partire dalla scorsa settimana, il notiziario di Italradio. Buon ascolto quindi da Giorgio Pagano. La radio però ha anche, come dire, per certi aspetti una, come dire, una struttura che struttura a sua volta poi anche le menti, cioè, mi spiego meglio, nel senso che proprio il fatto che ci sia l'appuntamento a una certa ora di un programma, no? E non in qualsiasi momento, sia che abbia come dire, un accesso pressoché spontaneo ovunque, no? Ormai sia i telefonini, sia la radiolina, eccetera, hanno l'accesso radiofonico, quindi il costo, diciamo, per ascoltare, sentire cultura o quant'altro, insomma, è pressoché infinitesimale. Il fatto che in un qualche modo anche la copertura sia pressoché totale, no? Nel senso che internet molto spesso, ecco, proprio poco prima di cominciare questa conversazione che stiamo facendo via internet, di fatto io che ho una collocazione tale per cui posso avere la DSL solo attraverso l'etere, di fatto, quindi con un collegamento radio, ho avuto dei problemi. No, se avessi potuto comunicare via radio molto semplicemente, questo non sarebbe accaduto. Poi c'è anche il problema, come dire, o meglio, la bellezza, se vogliamo, di qualcuno che ha un ruolo preciso, che è l'ascolto, e l'altro che si prende le responsabilità, che sono anche formative, della parola, no? Ecco, in questo senso i due media hanno caratterizzazioni molto diverse, nel senso che la prima è più strutturante e responsabilizza molto di più coloro che fanno i programmi, quindi c'è necessità che ci siano delle menti dietro e che si prendano responsabilità per farlo. E non a caso poi la questione delle cosiddette bufale è più un discorso, o come anglo-colonizzatamente vengono chiamate le fake news su internet, no? Ecco, sono questioni, ad esempio, che invece sono molto più destrutturanti, quindi c'è anche il rischio che giovani che sentono molto meno radio e sentono e stanno molto più sui media, poi siano anche mentalmente molto meno strutturati, no? Questa è un po' una riflessione che stavo facendo. Tu che ne pensi? Assolutamente sì. Ogni mezzo di informazione, partendo dalla colonna traiana che raccontava le gesta delle legioni, i confini dell'impero, fino al telefonino o al computer che stiamo usando adesso per parlare, ogni mezzo di informazione in qualche modo forma il pensiero, perché ci dà una percezione particolare di quello che ci racconta e ci richiede una, una partecipazione diversa, perché per esempio un libro o la radio nel quale mancano da una parte il suono, dall'altra la visione diretta, ci costringe a completare a modo nostro quello che noi stiamo apprendendo, stiamo interiorizzando. E la nostra esperienza, il nostro bagaglio culturale fanno da mediatore tra quello che noi leggiamo o ascoltiamo e quello che poi interiorizziamo. Quando invece sei bombardato continuamente da informazioni brevi, non strutturate, di cui si fatica a gestire anche la verifica dell'autenticità, come ricordavi tu, quello che noi possiamo mettere diventa poco, diventa meno efficace, meno importante, e quindi siamo in un certo senso più esposti a ricevere passivamente quello che leggiamo su internet, sul blog. Cerchiamo di essere brevi, di essere sintetici, ma il pensiero richiede articolazioni molto più ampie per strutturarsi e dare i suoi frutti, no? E quindi quello che tu hai detto è sacrosanto, ma c'è anche un aspetto ulteriore che secondo me va messo in evidenza e del quale abbiamo avuto anche recentemente tanti riscontri, che nel sistema tradizionale, diciamo quello del servizio pubblico, si parte da un produttore, che appunto è il servizio pubblico, che realizza un prodotto che è la trasmissione, sia documentario, di informazione, fiction, quello che ritiene essere servizio pubblico, per un destinatario che siamo noi utenti. Oggi su internet soprattutto, ma già da tempo anche con la televisione commerciale, abbiamo un produttore che appunto la televisione è il gestore del sito, chi vuoi tu, che crea un prodotto che siamo noi da dare a qualcuno che non sappiamo chi è. Perché noi siamo un prodotto? Perché quando diventiamo i numeri dell'audience da vendere al pubblicitario, o quando diventiamo soggetti di cui prendere i dati personali per poi venderli a chi li elaborerà, li aggregherà in big data oppure per cose più puntuali, noi diventiamo semplicemente un target e quello che prima era il prodotto, il programma, perde totalmente il suo significato, serve solo ad acchiappare gente. E anche su questo dobbiamo crearci delle barriere culturali per arginare questo fenomeno, no? Per sapere fino a che punto possiamo e dobbiamo esporci. Ma qui andiamo veramente su temi pionieristici, perché le nostre generazioni, ahimè, sono pionieristiche da questo punto di vista, e non è chiaro se e quando riusciremo a trovare un punto di equilibrio condivisibile per tutti. Senti, parliamo un po' dell'organizzazione, no? A cominciare ovviamente dalla tua, e per far capire un po' agli ascoltatori come funziona e soprattutto che tipo, come è formata poi tutto il coordinamento che riguarda le altre fonti radiofoniche italofone. Che dici? Può essere una buona idea? Sì, in realtà non c'è moltissimo da dire. Noi siamo un comitato nato nel 96, formato da pochissime persone, perché abbiamo scelto subito di darci una struttura molto snella, non abbiamo iscrizioni, non abbiamo tessere, non abbiamo praticamente nulla. Il segretario generale è Luigi Cobisi, io sono coordinatore scientifico. E poi abbiamo, oltre al nostro presidente onorario Nader Javairi, numerosi amici che danno il loro contributo, un po' come noi, mettendo le loro capacità professionali al servizio della promozione della radio. Per esempio, il nostro prossimo forum che si terrà a Pisa il 12 dicembre. è stato organizzato dal professor Filippo Giannetti dell'Università di Pisa, che ha messo in campo tutte le sue conoscenze, non poche, devo dire, sulla storia del sito marconiano di Coltano, per portarlo a parlare poi del 5G, quindi legare il passato al futuro, perché ahimè, quando abbiamo cominciato nel 96, il futuro era ancora quello della radiodiffusione. Oggi è molto più articolato, suddiviso in tantissime tecnologie delle quali è difficile tenere il passo. Ciò non toglie che non possiamo, non dobbiamo assolutamente attaccarci in un passato che non c'è più. Dobbiamo sempre confrontarci con il presente per preparare il futuro. E per fare questo abbiamo notato che tu ricordavi prima, per esempio, la radio, spesso una radio di appuntamento, il programma va in onda a una certa ora, no? E abbiamo notato che il nostro background è stato quello di una navigazione ante litteram, quindi non una navigazione su internet, passando da un sito all'altro, ma ad ogni ora del giorno sapevamo quale radio potevamo ascoltare, da quale parte del mondo, e ci facevamo la nostra navigazione via etere, Certo. che ci ha permesso poi di capire meglio certi fenomeni che si sono sviluppati via internet. E questo è solo un esempio, ma in tanti casi conoscere la storia dei mezzi di comunicazione ti permette di chiarire molto le idee su fenomeni apparentemente nuovi, che in realtà poi scopri che nuovi non sono del tutto, diciamo così, e quindi di avere dei riferimenti storici per cercare di capire la loro evoluzione, la loro portata, i loro effetti. E questo è un po' il nostro stile, no? Essere molto leggeri come struttura, coinvolgere tantissimi amici, quanti più sono migliore. E essere sempre attenti a trovare il giusto equilibrio tra il passato, il presente e il futuro, in una linea possibilmente di continuità che non crei fratture, perché sai, le fratture è facile farle, ma poi è sempre difficile ricomporle. Senti, una domanda, diciamo, che parte da questa dimensione organizzativa per spingersi poi più sull'operativo. Allora, le radio italiane che trasmettono in italiano, a parte la RAI che comunque trasmette anche in altre lingue, ma insomma non sono poche. Penso anche a Radio Monte Carlo, che al di là del nome comunque trasmette in italiano, e a tante altre ancora. Così come sicuramente ce ne sono e ce ne saranno gestite da italiani in paesi dove la nostra comunità è molto forte, penso che, ne so, per dire, proprio all'Argentina, no? Dove c'è molti dei nomi delle famiglie italiane compaiono ancora perché siamo tradizioni e tradizioni. Del resto, voglio dire, siamo, dopo quella cinese, la più grande diaspora del mondo, composta da 80 milioni di persone. Quindi questo lavoro certamente c'è. La prima domanda è: c'è un censimento però che mette insieme, che aggiorni una sorta di almanacco mondiale della radiofonia italiana nel mondo? Io sappia, no, noi ci abbiamo provato, ma è un campo molto molto difficile da gestire, perché una parte di queste emittenti sono emittenti pubbliche come la RAI in Italia, anche all'estero, penso a Radio Romania, Radio Cairo, Radio Argentina al Mondo, hanno un programma in italiano gestito da una stazione ufficiale, quindi è facile avere delle informazioni. C'è una regolarità, possiamo seguire con continuità questo fenomeno, ma sempre di più si stanno diffondendo anche a livello di internet, ma ancora molto a livello di etere. Altre realtà invece sono legate più alle iniziative individuali di comunità o appartenenti alle comunità italofone all'estero. Penso per esempio al Canada o alla Nuova Zelanda, dove Può capitare che nelle locali radio cosiddette etniche, quelle che sono multilingue, trasmettono per le comunità di lingue diverse da quella d'origine, si offrono, magari anche su base volontaria, per fare un piccolo programma settimanale o a volte anche con cadenze diverse, a volte anche giornaliero, dipende molto da tantissime cose che sfuggono ad ogni programmazione. E che fa di questo mondo di radioitelefono all'estero un mondo estremamente vivace, ma anche difficilissimo da controllare da qui, da monitorare, da seguire. E c'è poi un aspetto curioso che poche di queste stazioni sanno che esiste questo mondo di radioitelefone con le quali si potrebbe fare rete. Qualche anno fa con Radio Capodistria, con la Radio Dorcece in particolare, abbiamo potuto fare un programma chiamato Radio Viaggio, in cui abbiamo presentato molte di queste realtà, e molto spesso la soddisfazione di sapere che non erano le uniche stazioni a trasmettere in italiano era la reazione dominante di tanti interlocutori, che venivano appunto da piccole esperienze, anche importanti però nel loro ambito. Non va sottovalutato questo aspetto, pensare che il volontariato sia sinonimo di cattiva qualità o Certo. di inutilità, tutt'altro. E quindi Anche perché molto una spesso mappatura di questo mondo, ahimè, è difficile, molto difficile. Senti, allora, prima domanda, sarebbe possibile rifarlo? Intanto annunciamo appunto che già in questa puntata andrà in onda i 5 minuti che normalmente voi fate gestendo in rete la vostra trasmissione, no? Però mi ha dato un po' lo spunto ulteriore, proprio perché è difficile fare rete, proprio perché da questo punto di vista esistono molte di queste realtà che peraltro tu hai anche conosciuto, perché invece, oltre a quella trasmissione, non inaugurare un punto di riferimento appunto sulle radio italofone nel mondo che dia idea di quante sono e addirittura intervistarne i protagonisti, mettere una me cioè potremmo iniziare a fare un lavoro di questo tipo per poi, perché no, chiedere direttamente che la RAI sia a pagare un servizio di questo genere e visto che prende tanti, ma tanti, tanti soldi dagli italiani, piuttosto che trasmettere in continuazione unicamente filmografia in prima serata, ovviamente pagando royalty ai lavoratori di Hollywood, sia attori che scenografi, che costumisti, parrucchieri e quant'altro, ecco, magari c'è questa realtà da far costruire, perché no, magari avviando addirittura quelli che sono dei programmi di itineranti, no? Penso a Pechino Express proprio ieri sera che hanno presentato in Rai, o programmi di questo genere di viaggi, dove invece il viaggio si fa attraverso queste radio più o meno private, ma a questo punto doppiamente private, perché sono private anche della conoscenza agli italiani della loro esistenza, no? Che te ne pare di questa idea? Sicuramente ci si può ragionare, qualcosa di buono ne viene fuori, sicuramente. Devo dire che la RAI ha promosso insieme alle altre stazioni dell'area linguistica italiana, la comunità radiotelevisiva italofona, che è un luogo in cui sia le stazioni pubbliche, sia diciamo ai cosiddetti amici associati, cioè enti che magari non sono radio pubbliche e magari non sono neanche radio televisioni, ma l'Accademia della Crusca, per dire la prima che mi viene in mente, o enti di questo tipo, che sono interessati all'aspetto italofono, oltre che a quello radiotelevisivo. Ecco, il luogo dove questi soggetti si confrontano e fanno nascere alcuni progetti che però stentano a raggiungere queste piccole realtà così sparpagliate ed eterogenee nel mondo. Quindi Ma anche perché ben vengano. probabilmente, anche perché probabilmente questo è un lavoro da fare strettamente in relazione con il Ministero degli Affari Esteri, con tutte le ambasciate, i giornali italiani in loco. Io ricordo di essere stato qualche anno fa, ad esempio, alla comunità italofona a Barcellona, che è estremamente attiva e che hanno una radio che trasmette per gli italiani lì, oltre che un giornale, per dire quella che mi viene in mente, insomma, semplicemente per esperienza, passata. Quindi bisognerebbe mettere insieme, più, soggetti. La prossima, l'ultima, la penultima, anzi, settimana, di ottobre sarà la settimana della lingua e della cultura italiana nel mondo, e quindi ci sono tutta una serie di organismi che però di fatto, diciamocela tutta, girano a vuoto perché la loro inconcludenza sta tutta nel fatto che non sono, organizzate, e non sono ben organizzate probabilmente perché, da questo punto di vista non c'è una volontà di organizzarle, di far vedere o far sentire agli ascoltatori e far vedere anche ai telespettatori qual è la realtà, italofona nel mondo, no? Il cosiddetto, quello che dicevamo, il famoso convegno internazionalizzazione nella lingua italiana, no? Questo è un po', credo, mi pare di capire, raccogliendo un po' le cose che dicevi tu, anche i limiti di altre organizzazioni che poi, rimangono un po' bloccate. Quindi non mi pare nemmeno una questione di soldi, quanto proprio una questione di organizzazione politica, no? Perché i soldi poi, nel momento in cui c'è un'organizzazione politica, ci sono, si trovano e se ne trovano magari anche tanti, perché no? Dipende dallo scopo che ti dai, vale a dire qual è l'oggetto del tuo lavoro. E se questa pubblicizzazione avviene in modo capillare, come c'è ad esempio, che ti posso dire, ecco, quello il volume, l'almanacco dell'Ordine degli Architetti in Italia, per cui uno prende quella cosa e sa quali sono tutti gli architetti in Italia, beh, non c'è un almanacco di tutte le radio italiane nel mondo, insomma. E questo secondo me è estremamente importante perché tutto sta, e qui torniamo al famoso appello per la lingua, per l'italiano, lingua di lavoro europea, perché in tutti questi decenni, dal 58 in poi, non si è fatto altro che far discendere agli inferi la lingua italiana piuttosto che in paradiso, tanto per citare la Divina Commedia del fondatore, chiamiamolo così, della lingua italiana, insomma, no? Guarda, questo mondo di radio e televisioni italofone è talmente eterogeneo, vasto, che è difficile riuscire a governarlo, tra virgolette, anche a livello molto blando, no? Di coordinamento. E Beh, però stiamo parlando di quindi una cosa tutte le però stiamo parlando di una cosa iniziative in questo specifica. senso. Esatto, tutte le iniziative in questo senso che riescono a focalizzarsi su un punto dei tanti da valorizzare, possono portare un contributo concreto alla causa generale. Io Per penso cui anche penso che lo spazio per muoversi ci sia in abbondanza. Si tratta solo di riuscire a far percepire anche ai soggetti interessati l'importanza di un progetto di questo tipo. Ma con un po' di pazienza potrebbe essere possibile. Guarda, però è anche vero, cioè adesso addirittura proprio oggi esce, questo manifesto firmato anche da Renzi, contro il sovranismo. Beh, in effetti il sovranismo potrebbe invece portare a una riacquisizione di identità e di cultura che finora tutti i governi internazionalisti, ma che in realtà, sostanzialmente erano succubi della nazionalizzazione linguistica e culturale anglofona, non hanno fatto, perché poi tutta l'Europa è crollata e crolla per questo, cioè nel senso che il modello che ci hanno dato non era un modello federale, era un modello intergovernativo dove chi è più grosso vince, e in questo caso ovviamente la Gran Bretagna, che faceva da mosca cocchiera degli Stati Uniti, ha fatto sì che in brevissimo tempo l'inglese fosse obbligatorio praticamente per tutti gli altri popoli europei, laddove peraltro oggi come oggi nessuno parla del fatto che, non essendo più lingua comunitaria, in teoria dovrebbe uscire dal novero delle lingue straniere studiate obbligatoriamente in Italia, ma dovrebbe essere una lingua straniera come tante altre. Ciò evidentemente non sta accadendo e non accadrà molto probabilmente perché il silenzio di piombo che pervade tutto questo settore è piuttosto, no, mancheranno meno di 150 giorni alla fine di marzo 2019, quando la Gran Bretagna ci sarà l'Englexit oltre che la Brexit, ma di fatto nulla accade, no? Quindi su questo fronte potremmo anche, come dire, considerare come buono invece questo arrivo, così, questa specie come dire, di istanza di carattere sovranista, che non vuole cedere sovranità a terzi, a quarti o a quinti, e magari capire che probabilmente il paese che ha una nascita culturale più che altri, direi come quasi nessuno al mondo, no? L'Italia ha come fondamento la lingua italiana, non c'è nessun altro paese che ha come fondamento questo, anzi, paradossalmente, la lingua nasce prima del paese addirittura, no? Quindi abbiamo una nascita di questo tipo, beh, è probabile che queste siano anche idee, credo, anche molto buone per mettere, come dire, a disposizione di un governo, sedicente sovranista, delle idee che siano poi delle idee, costruttive, perché poi, voglio dire, anche la crescita, la famosa crescita, non la si fa se non si hanno delle idee di crescita. Questa sicuramente è un'idea di crescita, del proprio io, cominciare a ritenere che fino a ieri qualcuno ha ritenuto che dovevamo considerarci peggio delle formichine nel mondo, e magari domani scopriremo che invece magari non siamo delle formichine, ma un animale un po' più grande, no? Un po' più grosso da questo punto di vista, no? Sì, ma ti dico di più. Tu pensa che all'interno dell'Unione praticamente non esistono più servizi informativi diretti agli altri paesi, diretti all'estero. Abbiamo ormai in Europa l'unico programma italiano diretto all'Italia viene dalla Romania. Anche l'Albania ha dovuto chiudere le trasmissioni onde corte per motivi economici, continuano i nostri amici di Radio Tirana via internet. È già tanto che ci sia una presenza di questo tipo, no? Ma ci sono paesi come il Portogallo che hanno chiuso le trasmissioni per l'estero e si sono concentrati sulla lingua portoghese. Alcuni hanno conservato trasmissioni in inglese, dirette soprattutto in altri continenti. Servizi specifici perché un paese dell'Europa comunichi con un altro paese dell'Europa nella lingua di quest'ultimo, ormai ce ne sono veramente pochissimi e questo dovrebbe farci pensare. Cioè, se non comunichiamo tra noi, se non facciamo lo sforzo di parlare l'uno la lingua dell'altro, che fondamento possiamo dare alla nostra unione? Parlando tutti l'inglese o il francese o il tedesco, come si diceva, non lo so, la comunicazione nella lingua del destinatario è importante per tanti motivi, tra cui quello di essere forse la più credibile, perché se io faccio lo sforzo di parlare nella tua lingua significa che forse qualcosa di te mi interessa. Se parlo in inglese parlo a chiunque senza avere un interlocutore particolare e perdo un po' di credibilità, no? E anche su questo credo che ci sia molto da riflettere a tanti livelli, perché non è un fenomeno quindi più solo italiano, ma un ripiegamento di tanti paesi su se stessi che è cominciato a vedersi all'inizio di questo secolo e del quale oggi vediamo cattivi frutti, secondo me. Qui Italradio. Notizie. Gentili amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli. Si completa il programma del 15° Forum Italradio. La Svizzera abbandonerà la TV via etere. Nuovo concorso di Radio Romania Internazionale. Due collezioni sul tema radiofonico iscritte a Verona Phil. Veniamo alle notizie. Ci sono nuovi aggiustamenti al programma del 15° Forum Italradio che si svolgerà il 12 dicembre presso la Villa Medicea di Coltano, frazione di Pisa. La terza parte della giornata, che avrà inizio alle 16 e sarà moderata da Roberta Campo di Eutelsat, vedrà gli interventi di Giacomo Bacci della MBI su il progetto Nefocast, di Giuseppe Codispoti dell'Agenzia Spaziale Italiana su il progetto QV-Lift e di Dario Tagliaferri del Politecnico di Milano su i ponti radio della rete cellulare come sensori opportunistici per la misura della precipitazione, il progetto MOPRAM. È intanto confermato il programma delle prime due sessioni. La concessione federale alla Società Svizzera di Radiodiffusione, approvata il 29 agosto e in vigore dal 1 gennaio dell'anno prossimo, autorizza lo spegnimento dei trasmettitori della televisione digitale terrestre, ritenendo che il servizio via cavo, internet e satellite rappresenti già un'alternativa completa e considerato anche il calo del numero degli utenti. L'abbandono delle trasmissioni via etere è previsto entro l'estate del 2019. In una nota, Italradio critica la decisione di spostare la diffusione di programmi di servizio pubblico solo su canali facilmente controllabili, sottolineando che i satelliti trasmettono sempre più programmi criptati e la rete permette ai broadcaster di controllare gli specifici contenuti da inviare ad ogni singolo utente, con effetti sociali di portata epocale e non tutti positivi. Notizie come questa, conclude Italradio, non fanno che aumentare le preoccupazioni sullo sviluppo delle comunicazioni internazionali. Il nuovo concorso di Radio Romania Internazionale, l'emittente per l'estero della Società Romena de Radiodiffusione, è dedicato al 4° Festival Internazionale delle Orchestre Radio Radiro e al 90° anniversario delle trasmissioni radiofoniche in Romania. Il festival si svolge quest'anno dal 18 al 25 novembre e vi partecipano orchestre di spicco, solisti e direttori d'orchestra famosi. La principale novità dell'edizione 2018 è rappresentata dai concerti di jazz. Per partecipare al concorso bisogna rispondere entro il 30 novembre a 4 domande. Quanti anni fa è stato mandato in onda il primo programma radiofonico in Romania? Nominate 3 emittenti che fanno parte della Società Romena di Radiodiffusione. A quale edizione è arrivato il Festival Internazionale delle Orchestre Radio? Chi organizza il Festival Radirò? Maggiori dettagli sul concorso sono disponibili sul sito dell'emittente e sul portale Italradio. L'esposizione nazionale di filatelia tematica che si svolgerà nel corso di Verona Phil tra il 23 e il 25 novembre nella città scaligera ospiterà due collezioni filateliche sul tema della radio. La più nota è quella preparata da Giuliano Nanni del Circolo Filatelico Guglielmo Marconi, intitolata Guglielmo Marconi dal wireless, il tantam al wireless, la radio, che in 72 fogli racconta lo sviluppo dell'invenzione marconiana in ogni suo aspetto. La seconda è Ricordate la manopola della radio, preparata da Chi vi parla per il 20° anniversario di Italradio, che in 120 fogli racconta il radioascolto dalla nascita della radio ai giorni nostri. La presenza di ben due collezioni di alto profilo sul tema radiofonico permetterà di presentare al pubblico un panorama completo della storia e dell'attualità di questo mezzo. In chiusura di questa edizione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org e che questa edizione del notiziario può essere riascoltata anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.